English Bit di Giulia Crivelli. Shoppable. Here's how Burberry did an immediately shoppable fashion show. I media inglesi, ma anche quelli americani e italiani, hanno dedicato molti articoli ai cambiamenti in atto nel sistema moda, e in particolare nei calendari e nelle modalità di sfilata. Il Guardian, ad esempio, titolava «Ecco come Burberry ha organizzato una sfilata, show, immediatamente acquistabile». E questa è la tendenza del 2016, mandare in passerella anche qualche capo accessorio per il quale non si debbano aspettare mesi, ma che sia shoppable, online oppure offline, già a partire dal giorno successivo allo show. Chi segue la moda sentirà molto parlare di questa tendenza nei prossimi mesi, con alcune variazioni nella scelta dei termini: immediately shoppable, appunto, ready to buy, pronto da comprare, una specie di gioco di parole con ready to wear, traduzione inglese di prêt-à-porter, see now, buy now, e altre ancora. In questi giorni a Milano ci sono state le sfilate della stagione Fall Winter 16-17, l'autunno-inverno prossimo, e alcuni marchi hanno fatto proprio come Burberry, annunciando la disponibilità immediata di una piccola parte della collezione, tra questi Prada, Moschino e Putteret. Ma vediamo la parola shoppable. Viene da to shop, ovviamente, verbo regolare che significa comprare, oppure anche da shop, sostantivo che significa negozi. Aggiungendo able, che poi nella pronuncia diventa able, abbiamo l'aggettivo comprabile, così come aggiungendo able a love avremmo lovable, amabile. Torniamo però a shop e ai suoi infiniti usi. Shopping bag è il sacchetto di carta o di plastica che ci danno nei negozi. Shopping cart è il carrello della spesa che usiamo al supermercato. Shopping center è il centro commerciale. Shop assistant, la commessa. Shoplifting, invece, significa taccheggio, e in molti negozi ci sono cartelli che dicono shoplifters will be prosecuted. Coloro che taccheggiano, i taccheggiatori, verranno perseguiti. E come infine ci ha insegnato la scrittrice Sophie Kinsella, shopaholic è una persona che sviluppa una dipendenza da shopping, così come workaholic è chi lavora troppo.